Radio Plaza. Un pensiero poetico per l'occasione. A libertà, puro pappavalle là da prua. Che stai? E giù la cresta! Giù la cresta e la scritta resta. E questo, ridicoli pure, perché questa è la nuova puntata di Radio Plaza. Eccoci qui qua, oggi, questa stamattina è Radio Plaza in diretta da Pomigliano d'Arco. Oggi presso... domenica 26 ottobre 2024. E fa caldo ancora qui a Napoli, perché ricordiamoci sempre che noi andiamo in giro in diretta per il mondo. Oggi dove siamo? Nuova Zelanda, che dicevi prima. Come fare per sentire Radio Plaza nel mondo? Collegarsi a un sito internet. Collettivoutopia.noblogs.org. Collettivoutopia.noblogs.org è il punto in cui si può ascoltare Radio Plaza solamente in diretta, chiaramente, perché ci stiamo organizzando per un 24 su 24 possibile. Vabbè, sempre esagerato. Però dicevi prima, scusami, ti ho bloccato, no, diciamo... che oggi siamo invece a Pomigliano. Sì, perché siamo noi a Pomigliano? Aspetta, perché noi? Non perché correre, noi siamo Radio Plaza. E che vuoi? Radio Plaza è una radio di piazza estemporanea e spesso all'improvviso, ma non improvvisata. Vabbè, insomma, vabbè, facciamo finta che no. Sì, Radio Plaza anche arriva. Le imprecisioni fanno parte della bellezza dell'artigianato. Certo, e questa è una sì, scusa sì, ottima, un soprattutto grande per alibi, noi. Questo è un grandissimo alibi, sì. Noi quindi Radio Plaza arriva in piazza, come ci piace dire, spiazza, sì, sì. Strapazza, impazza. Ed eccoci oggi, strombazza. Siamo a Pomigliano perché? Perché non lo diremo scorazza. Noi oggi. Oggi corazza, non lo diciamo corazza. Noi perché abbiamo l'ospite è proprio quello là, proprio là. E noi siamo come gli antichi, per gli antichi gli ospiti erano sacro, sacri, quindi l'ospite. Anzi, sacra. L'avete già sentita, questa è la voce di Maria Carmela e ci sarà... Ma sarà abbiamo detto perché siamo qua? Ah, non l'abbiamo detto ancora. Siamo alla libreria Mio Nonno e Michelangelo a Pomigliano d'Arco, libreria antifascista, e Maria Carmela oggi adesso ci spiega un attimo chi, cosa, dove, come, perché, vedi tu come vuoi fare. Libreria antifascista è una specifica, diciamo, istituzionale? Vediamo, ascoltiamo le parole di Maria Carmela. Sai, ci sono la libreria legale, la libreria per bambini, la libreria dei racconti, di narrativa. Libreria antifascista è una specifica istituzionale, ho detto. E io rispondo sì. No, io non l'ho domandato, ma abbiamo detto chi siamo, soprattutto. Abbiamo detto chi siamo. Radio Plaza. Non lo diciamo, l'ho chiesto a lei, Maria Carmela. Sei antifascista? Assolutamente sì. Talmente sì? Talmente sì, l'ho scritto sì. Con grande dignità sulla libreria affinché nessuno... Buongiorno Maria Carmela. Propongo buongiorno. Un applauso a Maria Carmela. Lo faccio da solo, così mi diverto da me, diciamo così. Antifascista. Antifascista, sì. Non è una la specifica qual era? Della libreria. Cioè, la domanda è cosa, come, dove, perché, insomma, sono tante domande insieme. Pensavo alla domanda che avevo lasciamo fatto. Lasciamo spazio a Maria Carmela per raccontarci perché che si siamo è allontanata qua. Nel frattempo, perché troppe domande. La specifica, sì, è una specifica della libreria, come è una specifica di ognuno di noi, soltanto che pensavamo di non doverlo più indicare, e invece adesso è necessario scriverlo, indicarlo e renderlo pubblico. Io l'ho scritto alla libreria, spero che, come diceva Carmine, che le macellerie lo scrivano alle macellerie, che i falegnami lo scrivano alle falegnamerie e così a seguire. Le scuole lo scrivano. Wow, ci pensi, barbiere antifascista. Ah, certo. Wow, bellissimo. Dottore antifascista, dottoressa antifascista. Sì, lo spero. Pensavo non ci fosse bisogno, ma... E infatti non dovrebbe essere proprio necessario. Ma andiamo che al dicevamo, fatto. Il fatto accaduto. Che fatto è accaduto? Allora, sono accaduti vari fatti in questo tempo, che ho sminuito per ritenendoli di poco conto, perché voi adesso dite in che cioè, senso... l'elezione di Fratelli d'Italia al governo? No. Mi limito alla libreria, poi di cui fatti parliamo in altra sede. No, perché spesso i ragazzini hanno fatto il saluto fascista davanti alla scritta, passando più e più volte, però questo non sapevano neanche che cavolo stavano facendo, quindi ho lasciato correre. Le facce indignate, ma ovviamente... Ovviamente ognuno è libero di esprimere quello che crede, quindi anche l'indignazione di fronte a quello che è impossibile da rendere poco degno. ma l'attacco frontale, quello non, a quello non posso dire, non, non posso rimanere indifferente, perché un signore è venuto e ci ha tenuto a ribadire più e più volte che era una scritta vergognosa, che i bambini non dovevano vedere quello scempio, che ovviamente detto in napoletano e non in italiano, che insomma adesso avevamo addirittura il coraggio di scriverlo, prima almeno stavamo in silenzio, e cose di questo tipo, che deve ritornare Mussolini, che ci deve pigliare a tutti quanti, che vabbè. Un pazzo, no, uno stato, cioè, almeno direi uno fuori dal tempo, diciamo così, almeno in che senso? Uno fuori dal tempo, voglio dire, attualmente che ritorni Mussolini mi sembra un po' diciamo impossibile. Vabbè, anche questa, domanda. Poi magari la mi tengo sul vaglio, diciamo. No, ridiamoci, no, sul però, poetico, però sul poetico. Diciamo, il fatto di entrare in un luogo e di intimare la chiusura della libreria più e più volte, eccetera, questo almeno intimorisce, ti rende un attimo, stordisce un attimo. Questo che ti sta ha succedendo. Poi insomma spinto ad organizzare o almeno a allora, fare io questa chiamata. Ho voluto oggi trasformare tutto questo, grazie agli amici dell'AMPI, in una festa, che è la festa della Costituzione. E l'idea è questa, quella di, perché l'idea nasce proprio da questo, cioè riprendere la Costituzione tra le mani, renderla pubblica e non renderla soltanto come oggetto sacro. La Costituzione ci permette di vivere liberi, anche il fatto che il Signore sia venuto qui a parlare e a dire la sua è grazie alla Costituzione, quindi questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Lui non lo sa forse, però. Lui non lo sa, e questo, per questo siamo qui, anche per dire a lui che ha potuto parlare grazie. Poteva venire a stamattina, questa radio la faccio chiudere. Eh beh, dovrebbe prima aprirla. Detto questo, però, e quindi cosa succede oggi qui a Pomigliano? Ricordiamolo, siamo a Pomigliano, siamo alla libreria Mio Nonno e Michelangelo. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, in Italia. Per chi volesse, respiro internazionalista. Certo. Per chi volesse, siamo tutti qua, dalle 11:15 iniziamo la lettura tutti insieme della Costituzione, ognuno può leggere un articolo, può renderci partecipi del perché ha scelto quel determinato articolo, sono con noi i bambini e le famiglie tutte, perché la Costituzione è di tutti e quindi ci piace far sì che tutti possano partecipare. Sono contro ogni tipo di ostacolo, le chiusure anche intellettuali, la Costituzione è di tutti e tutti la devono tenere tra le mani. E Maria Carmela, invece, per essere più generali, questa, dicevo io, è Mio Nonno e Michelangelo. Sì. Ma cos'è Mio Nonno e Michelangelo e qual è il progetto, insomma, di questa libreria? Che, lo posso dire, venitela a vedere, anche se siete in Nuova Zelanda, come diceva Carmine, passate per Pomigliano d'Arco e venite a vedere. Radio Plaza pagherà biglietto a tutti da qualsiasi destinazione del mondo. Sì. Cassa zero, Radio Plaza da sempre, da sempre, quando è nata. Certo. Che cos'è, dicevi? Questa è una libreria specializzata nella letteratura per l'infanzia e i ragazzi, e per questo è antifascista, affinché le nuove generazioni sappiano da dove veniamo e quale indirizzo ci permette il futuro. E quindi per questo ho scritto, la Costituzione è parte integrante delle mie letture con le famiglie e con i bambini. Non so, questo è questa libreria. E quindi, se qualcuno volesse conoscerti, dacci qualche riferimento, nome, indirizzo web, cioè ma dove stiamo trovare facendo informazioni. Propaganda, beh, commerciale. E dai, e facciamola un poco. E facciamola, perché le librerie sono... Io non pago, però. Le librerie... Io non pago. Che le librerie sono... Io sono polemico rispetto a questa cosa, dimmi. Perché me ne sono accorto, diciamo, 25 anni fa che sarebbe successo che non ci sarebbero più state librerie in giro. Però ve lo racconto in privato? Certo, dopo ne parlo. E quindi dicevamo riferimenti, e poi ti vedo con il libro tra le mani, e quindi immagino tu voglia leggere qualcosa. No, il libro è la Costituzione. Quando anticipo che cosa sto per leggere, dico vi leggerò un passo dal più grande libro d'amore mai scritto, perché è questa la Costituzione italiana. Uomini e donne che si sono uniti per poterci rendere liberi. Anche quelli, no, anche donne, uomini e donne, quella lì. Caduta la linea. Allora, l'articolo 22 dice che c'è il nostro regista che, diciamo, sta soffrendo per il sole. In queste situazioni si trova in Provocation Island. Ah, ecco. No, vabbè, dopo questa, Maria Carmela, io andrei con il andiamo avanti con la propaganda. Tra tutti gli articoli, molti li conosciamo, l'articolo 3, diciamo, sono quelli più... Ma l'articolo 22 è meraviglioso. Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome. Del nome? Del nome. poiché ce l'hanno tolto, poiché se togli, vuoi togliere tutto a una persona, gli devi togliere il nome, gli devi mettere un numero. Ecco, questo articolo 22 dovrebbe essere anch'esso scritto da tante, tante parti. Grazie mille Maria Carmela. Con questa lettura ovviamente invitiamo tutte le persone a non andare via, perché alla fine di Radio Plaza, anzi a venire ancora di più, diciamo così, perché alla fine di Radio Plaza, tra le 11:15, 11:30 massimo, comincia la lettura della Costituzione. Alle 11:15 in circolo. Benissimo, grazie mille Maria Carmela, grazie ancora e ci vediamo dentro subito dopo. Ringraziamo Maria Carmela e siamo ancora in diretta qui su Radio Plaza. Stamattina un caldo estivo che mi fa sudare le dita. E perché questa è Radio Plaza, perciò è musica. E allora andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è L'Arbre va tomber di Francis Cabrel, dall'album Samedi soir sur la terre del 1994. Radio Plaza. Va tomber, les branches salissaient les murs, mais rien ne doit rester, le monsieur veut garer sa voiture. Nous, on l'avait griffé juste pour mettre des flèches et des cœurs, mais l'arbre va tomber. Le monde regarde ailleurs. L'arbre va tomber, ça fera de la place au carrefour. L'homme est décidé, et l'homme est le plus fort, toujours. Ouh, c'est pas compliqué, ça va pas lui prendre longtemps. Dégringoler l'arbre avec les oiseaux dedans. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient, et tellement qui s'y abritent encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors. L'homme veut mesurer sa force, et l'homme est décidé, la lame est déjà sur l'écorce. Et tellement qui s'y abrite encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors. L'arbre va tomber, on se le partage déjà. Y'a rien à regretter, c'était juste un morceau de bois. Ouh, un bout de forêt, avancer trop près des maisons, et pendant qu'on parlait, l'arbre est tombé pour de bon. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient, l'hiver quand les averses tombaient. Oh, t'as dû avoir passé des cortèges de paumés, des orages, des météores. Et toutes ces nuits d'hiver quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors. Dehors. À coucher dehors. Radio Plaza, frequenze dinamitarde. Oggi la libertà non esiste o è troppo poca. Le nostre azioni sono spesso condizionate dal denaro e dai costumi e quindi per niente libere. È come se ci sfuggisse di mano di continuo. Gli amanti e le amanti della libertà con molta fatica tentano di essere custodi di spazi, luoghi fisici ed ideali in cui poter teorizzare e praticare la necessità di autodeterminazione e di libertà. Parliamo di libertà a tempo determinato, di zone franche in cui colmare le enormi voragini autoritarie generate dal sistema sociale, culturale ed economico attuale. Viviamo molto poco la libertà e quindi teorizzarla risulta essere abbastanza complesso. Diversi scrittori e filosofi hanno dato grossi contributi alla visione di una libera e nuova umanità. Proprio prendendo spunto dalle loro riflessioni, provo a dire due parole su quello che è per me libertà e in particolare libertà individuale. Sono proiezioni e già questo porta con sé tutti i limiti che hanno le previsioni. Libertà è la possibilità di essere individuo, di poter esprimere le proprie idee e riuscire a cogliere quelle altrui, di vivere un contesto sociale che non schiacci la libertà individuale a favore di quella collettiva, ma che tenti di valorizzare l'individuo come elemento fondante dei gruppi sociali. Ci sarà libertà individuale solo quando intorno a me ci saranno altre persone ugualmente libere. Più aumenterà la libertà individuale altrui, più crescerà la mia libertà individuale. L'ignoranza non è libertà. Le credenze, le superstizioni, gli idoli non sono libertà. L'odio non è libertà. La società non è libertà. I ruoli, le gerarchie non sono libertà. L'orologio, la sveglia, no, non sono libertà. La famiglia, no, non è libertà. La disarmonia non è libertà. E allora cos'è la libertà? Difficile da definire, un concetto su cui riflettere quotidianamente, perché è nel quotidiano che bisogna essere liberi e sentirsi liberi. Ma poi liberi da o liberi di? Quante domande a cui non basta una sola risposta, ma un pensiero continuo. Si potrebbe partire dall'idea che una persona è libera quando è in piena armonia con se stessa e con le sue propensioni. Una persona è libera quando è interamente responsabile delle sue scelte, anche del sottrarsi alle scelte, e non lascia che altri o altro scelgano per lei. Ogni persona è libera quando si costruisce e si alimenta, ma poi ci sono i condizionamenti interni e soprattutto esterni che ci portano a desiderare una cosa o l'altra e a determinare le nostre scelte, le nostre azioni. A cosa serve poter fare ciò che si vuole se poi la volontà non è libera di decidere cosa volere? C'è poi un'altra riflessione da fare. Qualunque riflessione sulla libertà diventa immancabilmente una riflessione su quali compromessi siano accettabili. La libertà è la base per il riconoscimento della dignità e delle capacità della persona, ma potrebbe sconfinare nell'egoismo, nella prevaricazione. Ecco allora la necessità della responsabilità, della consapevolezza del limite, che non significa prigione, schiavitù, ma che significa seguire una regola autoimposta e spesso, anzi, magari, condivisa. L'autonomia non può mai essere totale e la libertà di scegliere non può mai pretendere di essere perfetta. Questo significa che si è meno liberi? Se ci si impegna in modo pieno in una causa o con una persona? Non credo. Anzi, forse in questi casi ci si avvicina molto ad una piena libertà, che se mai dovesse avere un fine, potrebbe essere probabilmente la libera donazione di sé, del sé autocostruito, del sé consapevole e responsabile. Radio Plaza. La disobbedienza civile non è il nostro problema. Il nostro problema è l'obbedienza civile. Il nostro problema è che le persone in tutto il mondo obbediscono alle imposizioni dei capi e milioni vengono uccisi a causa di questa obbedienza. Questa è una frase dello storico saggista e attivista Howard Zinn. cosa che più temo è che l'autorità, attraverso il consenso della maggioranza, lasci le maggioranze stesse libere di scegliere come comportarsi nei confronti delle minoranze, emarginandole, magari non soltanto non rispettandole, ma non tollerandole. Questo ingenererebbe un grave delitto storico e culturale, cioè il non approfittare di quanto queste minoranze, attraverso questi loro differenti comportamenti, comportamenti peraltro che vengono vissuti soltanto con il desiderio di rassomigliare a se stessi, e si perderebbero appunto molti dati culturali di cui il nostro mondo potrebbe arricchirsi. Discorso a un bambino di Marcello Bernardi. Se ti dicono sempre che sei bravo o brava, stai in guardia, qualcuno cercherà di sfruttarti. Se ti dicono sempre che sei intelligente, stai in guardia, qualcuno o qualcuna cercherà di eliminarti. Se ti dicono sempre che sei obbediente, stai in guardia, qualcuno o qualcuna cercherà di farti schiavo. Se ti dicono sempre che sei buono, stai in guardia, qualcuno o qualcuna cercherà di opprimerti. Ma se ti dicono studia, non temere, tu potrai fare un mondo senza scuole. Se ti dicono taci, non temere, tu potrai fare un mondo senza bavagli. Se ti dicono obbedisci, non temere, tu potrai fare un mondo senza padroni. Se ti dicono chiedi perdono, non temere, tu potrai fare un mondo senza inferni. Non credere a chi ti comanda, a chi ti punisce, a chi ti ammaestra, a chi ti insulta, a chi ti deride, a chi ti lusinga, a chi ti inganna, a chi ti disprezza. Essi non sanno che tu sei ancora un uomo libero, una donna libera. Si te credi se darà ma martiella, e già fa la tiella, si ta e credi se darà ma martiella, e già fa la tiella, che fai la grande mambre calunasa, va figlia mia che marse te ne rasa, va figlia mia che marse te ne rasa. Passa il tempo che per te filava e che lo celerava. Passa il tempo che per te filava e che lo celerava. A chi non sento amore che mi chiama, scuola te padre ma non c'è più mamma. Scuola te padre ma non c'è più mamma. Gatilla, so scedere alle grilla, Adanna per te l'occhiali gatilla, so scedere alle grilla, se non c'è sta speranza sti bellizze, va spizzere l'opera quando in pizza, va spizzere l'opera quando in pizza. Sto la mola da luzzino, ne chiù mi muova zinno, e a gia posto la mola da luzzino, ne chiù mi muova zinno, e già conosco la figa laio, astugurtiel le tuoi chiun madaia, astugurtiel le tuoi chiun madaia. Così stiamo su Radio Plaza, ricordiamolo, oggi è una puntata specialissima qui da Pomigliano d'Arco, alla libreria Mio Nonno e Michelangelo, puntata di Radio Plaza, Ridicoli, giù la cresta, la scritta resta, in diretta qui dal vivo, proprio davanti alla porta della libreria Mio Nonno e Michelangelo, è su collettivoutopia.noblogs.org. Questa è Radio Plaza e quella che abbiamo appena ascoltato cosa era abbiamo ascoltato? Si Tegre Ris Radam Martiel, cantata da Renata Mezenov Sa, dall'album Para Pilar del 2001. Vuoi aggiungere qualcosa? Lo so che no, no, no, siamo agli sgoccioli, quindi non voglio aggiungere nient'altro. Questo è terreno fertile. Siamo agli sgoccioli, siamo per salutare. Sì, questa puntata è volata via, velocissima. Siamo arrivati alla fine della puntata. Ora comincia la lettura all'interno della libreria Mio Nonno e Michelangelo, ribadiamo, a Pomigliano d'Arco. E ci dobbiamo salutare. Eh sì, siamo ai saluti. Una puntata bella breve questa qua. Speriamo che le persone non si siano svegliate troppo tardi, dato, diciamo, il cambio d'orario. Sì, ma la possono ritrovare, vero? La possono ritrovare su collettivoutopia.noblogs.org. Sì, il sito è collettivoutopia.noblogs.org. Vuoi accavallarti un po' con me? Ci accavalliamo spesso, infatti, piacevolmente. Molto, dicevamo. Che siamo alla chiusura e quindi siamo ai saluti. E ci lasciamo con un brano. E allora chi salutiamo? No, salutiamoci tutti quanti adesso e poi ci salutiamo col brano. No, salutiamo chi arriva, salutiamo chi va, salutiamo chi c'è e chi resta soprattutto. La tua voce. Salutiamo la mia voce e salutiamo anche la tua voce. E la regia di? Sempre lui. Vadislav from Vegan allo spippolettamento del mixer. Che lui oggi è andata bene, il sole non lo ha proprio scottato fortemente. No, io direi che proprio gli è andata proprio bene a incontrare noi. Vabbè. Me la suono e me la canto. Quindi dicevo, siamo verso i saluti. Ringraziamo Maria Carmela che ci ha invitato, ci ha permesso di è stata contenta di averci qui oggi. Salutiamo Maria Teresa che è appena arrivata, ancora intontita senza caffè. E quindi andiamo avanti, riascoltiamo quindi il brano finale di questa puntata specialissima. Ricordiamo il titolo. Il titolo era Ridicoli, giù la cresta, qui la scritta resta. Resta, sì. Presentiamo questo brano di Daniele Sepe, giusto? Vado io? Dai, è bello che ci sta l'incertezza, perché è un intoppo che fa parte della diretta della cosa. Anche se lo inventi tu, capite? L'intoppo, lo metti apposta. Questa è la scusa che usi sempre. Allora, è una rielaborazione di una canzone popolare brasiliana, Peixinhos do Mar, resa celebre da Milton Nascimento. E la fa Daniele Sepe con il coro di voci bianche dell'Istituto Comprensivo Benedetto Croce di Pescasseroli. E il coro dei bambini della Scalzabanda. Il brano si intitola Cazzimmao, pesciolini e pesci a brodo. Ma alla domanda fatta in un'intervista a Daniele Sepe, ma chi è Cazzimmao? Lui risponde, di Cazzimmao ce ne stanno veramente troppi, da Benetton a Marchionne. Molti politici sono Cazzimmao. Siamo in un'epoca volatile, senza profondità. Anche la scarsa attenzione e cura per la musica, il cinema, la letteratura. Il Ministero della Cultura. È anche molto difficile trovare buoni amici che non ti pugnalino alle spalle per convenienza. Vedi, chi cambia partito. Oggi sarebbe impossibile fare la rivoluzione come Che Guevara, perché i compagni ti potrebbero vendere in mezzo alle montagne. Questo è quello che dice Daniele Sepe. E questa è Radio Plaza. Ci lasciamo così con il brano Cazzi Mao, Pesciolini e Pesci a Brodo di Daniele Sepe, Simona Bo, Roberto Bastos, dall'album Le Nuove Avventure di Capitan Capitone del 2020. Da Pomigliano d'Arco presso la libreria Mio Nonno è Michelangelo, che è una libreria antifascista. Radio Plaza. C'era una volta nel mare profondo una tribù di pesciolini che vivevano senza confini. Erano tutti diversi, ma si sentivano uguali tra loro. Ma un giorno un pesce di nome Cazzi Mao, che era diventato grande, grandissimo come un aramao, perché da piccolo s'abbuffava i merendine, comincia a fare il prepotente con gli altri pesciolini. Che ne so, allo scorfano piaceva la piccola Alice e lui allora diceva: scorfano, Alice piace a me, vattene via, lascialo subito e prendi un'altra via. Che ne so, alla triglia piacevano certe merendine e lui diceva: triglia, son più grosso, dammi le tue merendine, vedi che ti do addosso. Ma vi è simpatico questo Cazzi Mao? Ma la cosa più grossa che fece, sapete quale? Fu quando decise, che ne so, che la spigola doveva nuotare solo tra lo scoglio della tegola e la secca della sirena, o che l'orata non doveva mai andare più in là di terra murata. Questi limiti li chiamo confini. Aspettate che viene il coro, poi racconto come andò a finire. Faceva il prepotente, più si faceva grosso, più diventava grosso, più si faceva un pezzo di fetente. Che ne so, un giorno disse a tutti gli altri pesciolini: io sono il più grosso e da oggi decido che per metà della vostra giornata lavorate voi per me e mi portate tante merendine, che mi devo fare ciotto ciotto. Ma vi è simpatico a voi sto Cazzi Mao? E i pesciolini invece? Bravo! E me, un giorno capitò da quelle parti un galeone, 30 cannoni, delle vele alte alte, una cosa magnifica, tutto bello, tutto nero. Era il galeone di Capitan Capitone, e buttò le reti a mare, con le reti fatte di ottone, pesanti che scendevano fino al mare più profondo, ma queste reti erano fatte coi buchi larghi larghi, così che i pesciolini più piccolini potevano scappare, passavano tra i buchi, tutti i pesciolini scapparono. E secondo voi quale fu l'unico pesce che rimase intrappolato? Bravo, proprio così. E fu così che Cazzi Mao finì in un ben definito confine, quello della grande padella di Capitan Capitone. Prima di finire lui a fare da merendina, così senti parlare Capitan Capitone: i pesci piccoli, se sono uniti, sono fatti per non aver confini. Gli unici pesci che hanno il confine sono i pesci a brodo. Volete diventare pesci a brodo voi? Volete essere pesciolini senza padroni e senza confini? Non ho capito bene. Volete essere pesci a brodo voi? Ma pesciolini senza confini? Bravo!